GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Tanta paura ma nessun danno per la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 che ieri sera ha avuto come epicentro la zona tra Monti e Socchieve nel Pordenonese, scossa avvertita nitidamente in tutta la regione. Conferme da MSC per Varsila, il colosso della logistica conferma gli impegni anche sulla riassunzione del personale, tempi brevi per l'accordo di programma. Assemblee del personale all'Electrolux di Porcia, all'ordine del giorno il piano di ristrutturazione voluto dall'azienda, preoccupano le previsioni sui volumi nella fabbrica di Porcia, 95 operai sono coperti da contratti di solidarietà, a maggio un nuovo incontro sul loro futuro. L'ex consigliere regionale della Lega Ugo De Mattia è stato arrestato dai carabinieri per i fatti commessi tra il 2010 e il 2012 nell'ambito dell'inchiesta sulle cosiddette spese pazze dei politici. La Cassazione ha invece annullato la condanna dell'altro ex consigliere regionale della Lega Razzini, assolti Piccin e Picco. Cessione dei crediti per i bonus edilizi, l'accordo Regione Intesa San Paolo resta valido anche dopo la stretta del governo, ma si teme per i posti di lavoro del settore. Il comune di Monfalcone individua le aree per il culto collettivo islamico, sono il bocciodromo di Via Cosulic, il parco giochi alla base della salita della Rocca e l'area delle Terme Romane, attesa la risposta della comunità musulmana. Il vescovo di Trieste invita a reagire, la Pasqua invita a rialzarsi, ci sono morti che camminano nella nostra società, è ora di risorgere, dice il presule nel messaggio pasquale. Traffico sostenuto in aumento per il Porte Pasquale, sarà sostenuto fino a sabato, il picco martedì per i rientri. Aggiornarsi alle novità del codice della strada avvenute negli ultimi decenni è l'obiettivo di un incontro dedicato a chi ha la patente da oltre 20 anni, organizzato dalla polizia locale a Cividale. Le 7.20 di giovedì 28 marzo, buongiorno da Livia Liberatore, Andrea Covre in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. In apertura diamo un'occhiata al tempo, la nuvolosità è variabile oggi con qualche debole precipitazione in montagna. Sulla costa soffia vento da sud, da moderato a sostenuto. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 11,5 gradi, a Gorizia 9, Udine 8, Pordenone 5,5 gradi, a Tolmezzo 6, Tarvisio 3, Forni di Sopra 2, Sappada 5 decimi di grado sopra lo zero, Piancavallo 1,5 gradi, sul Monte Zoncolan meno 2 gradi, Monte Lussari meno 3, tornando sulla costa a grado 13 gradi, a Lignano 11,5. Le previsioni per oggi, cielo in prevalenza coperto con piogge intermittenti, in genere moderate, abbondanti o localmente intense sulla fascia orientale e saranno probabili dei temporali. Quota neve a 1000-1400 metri, soffierà vento sostenuto tra sud e sud-ovest, forte nelle ore centrali e nel pomeriggio, con mareggiate sulle coste esposte e possibile acqua alta. Ora le notizie, una scossa di terremoto è stata registrata ieri alle 22.19 nelle prealpi friulane tra Tramonti e Socchieve nel Pordenonese al confine con la provincia di Udine. La magnitudo stimata in un primo momento era 4.7 sulla scala Richter, il sito dell'INGV l'ha successivamente ricalcolata in 4.1, sono seguite poi piccole scosse d'assestamento, la più forte di magnitudo 2.7 alle 3.36 della notte. La scossa è stata distintamente avvertita in tutta la regione, fino a Trieste, anche nel vicino Veneto e in Trentino. A Tramonti di Sopra la gente è scesa in strada spaventata. Molti raccontano di aver sentito un boato proprio prima della scossa. Abbiamo fatto un primo giro per il paese, riferisce il sindaco Giacomo Urban, e non abbiamo visto tegole a terra o intonaci o infissi caduti. A Socchieve è mancata la corrente elettrica per alcuni secondi. Il sindaco Coriglio Zanier riferisce di qualche caduta di tegole. Decine le chiamate arrivate al numero unico d'emergenza 112 da parte di cittadini allarmati. Ma non ci sono state segnalazioni di danni a cose o persone, anche a causa del fatto che l'area è scarsamente popolata. MSC ha confermato gli impegni per la reindustrializzazione dello stabilimento ex Varsila di Bagnoli della Rosandra e ha confermato anche la riassunzione di tutti e 300 i lavoratori. Sono questi gli esiti del nuovo incontro che si è tenuto a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presto sarà reso noto anche l'accordo di programma. Ai prossimi appuntamenti del 9 e 23 aprile dovrà essere pronto lo scheletro dell'accordo di programma contenente la parte ferroviaria, quella doganale e quella sulle politiche del lavoro. È un'accelerazione quella data oggi dopo il nuovo incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Varsila. MSC da parte sua conferma che tutti e 300 i lavoratori verranno rioccupati. Il progetto del colosso della logistica prevede la creazione di un impianto di produzione di vagoni ferroviari per il trasporto merci. L'obiettivo, quello di produrre 1000 vagoni l'anno con alto livello tecnologico. Da parte di MSC, la richiesta di poter accedere alle agevolazioni fiscali normative e di accesso al credito previste nel caso di una reindustrializzazione. L'azienda ha già richiesto dei preventivi per la fornitura dei macchinari, ma vuole anche chiudere al più presto il passaggio di proprietà dello stabilimento. Da un primo sopralluogo è stata rilevata la necessità di alcuni interventi sulla struttura. FIM, FIOM e WILM invece chiedono le stesse condizioni salariali per i 300 lavoratori. Le richieste avanzate da MSC per dare vita all'intervento di reindustrializzazione sono circostanziate e la Regione è pronta a mettere in campo, per quanto di sua competenza, tutti gli strumenti necessari sia sul fronte della formazione sia del sostegno alla realizzazione di infrastrutture a supporto del sito produttivo. Lo sottolinea l'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolene, che ha partecipato alla riunione. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La crisi Electrolux, confronti tra personale e sindacati ieri sul piano di ristrutturazione dell'azienda che prevede oltre 150 esuberi in totale. Partono i licenziamenti, esodi volontari, 86 le eccedenze a Porcia. Assemblee partecipate all'Electrolux di Porcia, all'ordine del giorno il piano di ristrutturazione voluto dall'azienda, 153 esuberi in Italia tra gli impiegati, buona parte nello stabilimento friulano. La scorsa settimana è stato raggiunto un accordo per le uscite volontarie incentivate, scongiurando licenziamenti unilaterali. Inizialmente in parte contestato, il documento è stato poi sottoscritto da tutte le sigle sindacali. Mancava l'appello l'RSU FIOM di Porcia, che ha dato la sua disponibilità alla firma solo dopo il confronto con i lavoratori e le lavoratrici. Per l'RSU FIOM di Porcia, Walter Zoccolan. Abbiamo scelto di non mettere la firma perché c'erano degli elementi di poca chiarezza che permangono, ma noi per senso di responsabilità dobbiamo mettere in sicurezza i lavoratori impiegati, quindi siamo disponibili alla firma. In questo caso qua, dopo aver esposto tutti i lavoratori, quali sono gli elementi di incertezza che stanno continuando a crescere, visto che all'orizzonte si stanno prefiggendo scenari diversi per quanto riguarda i volumi produttivi dell'anno 2024. Preoccupano anche le poco rassicuranti previsioni sui volumi. 95 operai sono al momento coperti da contratti di solidarietà. A maggio un nuovo incontro sul loro futuro. Ancora Zoccolan. Su questi c'è il contratto di solidarietà che per oggi tutela, ma è chiaro che se questa situazione qua permane e l'azienda ci dice che siamo in una situazione di stallo per i prossimi 2 anni, si apre un problema anche per l'eccedenza operaia. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo il confronto con i sindacati CGL e CISL e UIL, il comune di Monfalcone ha dato l'ok per la manifestazione nazionale del 1 maggio in Piazza della Repubblica, che potrà ospitare tra le 2.000 e le 2.300 persone. Il programma dell'evento è ancora in fase di definizione. La cronaca: è finito in carcere a Udine l'ex consigliere regionale della Lega De Mattia, confermata la condanna a 4 anni e 2 mesi per peculato. Il procedimento giudiziario sulle spese pazze dei politici continua invece per l'altro ex esponente del Carroccio Razzini, assolti invece Mara Piccina ed Enore Picco, sempre ex consiglieri regionali della Lega. È stato arrestato l'ex consigliere regionale della Lega Ugo De Mattia. I carabinieri del Comando Provinciale di Trieste hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, dopo che la Corte di Cassazione ha confermato per lui la condanna a 4 anni e 2 mesi per peculato nell'ambito della cosiddetta inchiesta spese pazze sui rimborsi erogati ai consiglieri regionali. L'inchiesta era partita nel 2013 dopo un blitz serale della Guardia di Finanza nella sede del Consiglio regionale e aveva riguardato le spese sostenute dai gruppi consiliari regionali negli anni precedenti. In particolare i fatti addebitati a De Mattia risalgono al periodo compreso fra il 2010 e il 2012. Oltre 20 in tutto i consiglieri regionali coinvolti di diversi gruppi con esiti giudiziari differenti. Al centro dell'inchiesta avviata dal PM Federico Frezza, i rimborsi che sarebbero dovuti servire a coprire il funzionamento dei gruppi consiliari e le spese di rappresentanza, ma che erano invece stati erogati a fronte della presentazione di scontrini relativi agli acquisti più disparati, molti dei quali di carattere personale. L'ex consigliere leghista è stato condotto nel carcere di Udine. È andata diversamente per il collega di De Mattia, Federico Razzini, a sua volta esponente del Carroccio, nei cui confronti la Corte di Cassazione ha annullato la condanna della Corte di Appello di Trieste, ritenendo che non vi sia stato reato di peculato. Il procedimento tornerà ora in appello. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'annuncio del governo dello stop allo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi ed energetici non avrà effetti sul patto tra Regione e Intesa San Paolo per recuperare 75 milioni di euro di crediti fiscali incagliati. L'accordo prevedeva l'acquisto di crediti già nei cassetti fiscali delle imprese, mentre il nuovo decreto legge dovrebbe intervenire sugli interventi futuri e sulle eccezioni laddove era ancora presente lo sconto in fattura. A spiegarlo l'assessore alle finanze Zilli, che si è detta certa che l'operazione messa in campo sia assolutamente sicura e confermata. Nei giorni scorsi la Regione ha chiesto alle categorie un aggiornamento delle stime sui crediti incagliati. Confartigianato, Friuli Venezia Giulia ipotizza restino ancora 80 milioni in diminuzione rispetto ai 280 milioni calcolati a fine 2023. Preoccupate invece le aziende che operano nel settore edile, che temono ripercussioni sulle loro attività e sull'occupazione. La querela dei centri islamici. Il comune di Monfalcone informa di aver individuato 3 aree nelle quali è possibile per la comunità islamica svolgere le attività di culto. Si tratta dell'area parco giochi della salita della Rocca, vicino al parcheggio alla base della salita, e dell'area delle terme romane. In entrambi i casi, afferma una nota del comune, si tratta di spazi facilmente raggiungibili dal centro cittadino, dignitosi e curati, e nei quali sono facilmente installabili strutture sia per l'illuminazione notturna sia per proteggere i fedeli in caso di maltempo. L'altra area che viene individuata come sito alternativo provvisorio è il bocciodromo di via Kosulic, in gestione alla società AR Fincantieri, che però non è utilizzato in maniera continuativa e per il quale andranno assunti tutti gli adempimenti di legge, quelli assicurativi e quelli relativi alla sicurezza e al mantenimento dell'integrità del terreno dei campi da gioco. Il comune ricorda di aver attivato in forma epistolare il tavolo di confronto con le associazioni islamiche, richiesto dallo stesso Consiglio di Stato per risolvere la questione. Per oggi è attesa la risposta della comunità islamica. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha incontrato alcuni rappresentanti di Google a Londra nell'ambito della missione in corso nella capitale britannica, insieme ad alcune start-up della regione che partecipano alla 5ª edizione della Fiera SMAU, dedicata all'innovazione per imprese, start-up, enti pubblici, ospitata a Brick Lane. L'incontro ci ha permesso di intessere relazioni a sostegno delle start-up della regione, ha commentato Fedriga, ma anche di valutare assieme possibili progetti da portare avanti in collaborazione con la pubblica amministrazione. In Consiglio regionale è stato approvato ieri il disegno di legge numero 16 che riporta norme in tema di lavori pubblici, paesaggio e territorio. Al grande apprezzamento dei gruppi di centrodestra che hanno votato compattamente a favore, ha fatto da contraltare il duro giudizio negativo di Serena Pellegrino, di Alleanza Verdi Sinistra, Furio Honzel, Open FVG e Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle, assieme al no con maggiori sfumature del gruppo del PD annunciato dal capogruppo Diego Moretti. In mezzo si è posto il patto per l'autonomia civica FVG, che con il relatore Marco Putto ha apprezzato alcune aperture positive pur sottolineando nel contempo tantissime ombre. Si è conclusa così la maratona consiliare di un giorno e mezzo con dichiarazioni di voto finali che hanno riproposto 2 visioni molto diverse sulle norme. Sono proprio lavori pubblici e paesaggio, ha detto l'assessore Cristina Mirante, i capisaldi di questo disegno di legge che credo esca migliorato e approfondito dall'esame dell'Aula. Il Consiglio d'amministrazione di Aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA ha approvato il progetto di bilancio di esercizio 2023, che segna una significativa crescita dei volumi di traffico e degli investimenti. Decisamente positivi anche i risultati economici e finanziari, con un utile pari a 3,2 milioni, in aumento del 33% sul 2022. Per quanto riguarda il traffico, nel 2023 al Trieste Airport sono stati registrati 932.767 passeggeri, il miglior dato storico dell'aeroporto regionale, con un aumento del 33,5% sul 2022. Gli investimenti corrispondono a 11,8 milioni. La cronaca cittadina, assemblea pubblica ieri a Udine per l'illustrazione da parte del Comune delle proposte di pedonalizzazione dell'area di Piazza Garibaldi che i cittadini hanno presentato grazie al questionario pubblicato online. Dalla prima settimana di giugno Piazza Garibaldi non sarà più un parcheggio, sarà pedonalizzata e dotata degli arredi urbani già acquistati dal Comune. Panchine, aiuole, rastrelliere per le biciclette, tavolini e potrebbe ospitare il concerto di fine anno della scuola media Manzoni. Illustrati nel corso di un'assemblea pubblica all'istituto, i risultati di un primo questionario compilato online fino a dicembre, circa 650 le risposte arrivate. Emerge come il 79% degli utenti raggiunga la piazza in bici, a piedi o col bus, mentre il 21% preferisca l'automobile. Oltre il 66% dei votanti ha indicato di desiderare una maggior presenza di verde e il 56% di pensare la piazza come spazio di aggregazione e incontro. Nel corso della serata distribuito un secondo questionario per capire le abitudini di mobilità degli utenti della scuola. A maggio verrà presentata una prima ipotesi di allestimento degli arredi in piazza e a seconda dei risultati dell'ultimo questionario, proposte aree di sosta breve per permettere ai genitori di fermarsi temporaneamente per lasciare i bambini a scuola in vista del prossimo anno scolastico. Ivano Marchiol, assessore alla mobilità del Comune di Udine. Queste aree non devono essere su Piazza Garibaldi o in assoluta prossimità di Piazza Garibaldi perché si creerebbe un imbuto, una congestione. Possono essere delle aree in grande prossimità e da cui ci saranno dei percorsi pedonali brevi ma sicuri per i ragazzi e le ragazze per raggiungere la scuola in autonomia. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Viviamo in una società individualista e lamentosa, ci sono morti che camminano, risorgete. È un passaggio del messaggio per la Santa Pasqua firmato dal Vescovo di Trieste, Monsignore Enrico Trevisi. Ci sono uomini e donne, giovani e anziani che soffrono per deficit di speranza, una patologia assai diffusa, mancano le ragioni per sorridere, non ci sono le energie per impegnarsi, scrive il presule. La guerra è imperversa, le coppie si dividono, l'inverno demografico avanza, spaventati di fronte al futuro, occorre ripiegarsi su qualche successo precario. Ma, osserva il Vescovo, la luce della Pasqua ci consente la libertà di rialzarci. Il risorto che dona la sua pace fa nuovi l'uomo e la donna, ognuno nella propria carne vulnerabile, eppure capace di speranza. L'invito di Monsignor Trevisi, che si rivolge all'incompreso, al non amato, al fallito e all'isolato, è dunque a rialzarsi, a risorgere, seguendo il messaggio pasquale. Il traffico è in aumento da oggi per il ponte di Pasqua, sarà sostenuto fino a sabato, il picco martedì per i rientri. Chi non ha consultato in questi giorni le previsioni del tempo per il weekend lungo di Pasqua, buona cosa sarebbe per chi intende spostarsi in auto dare un occhio anche alle previsioni del traffico. Secondo Autostrade Alto Adriatico sarà un ponte caratterizzato da traffico sostenuto soprattutto lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste. Occhi puntati però ai rientri dalle ferie, quando oltre ai vacanzieri riprenderanno la marcia gli autoarticolati provenienti dal centro-est Europa. Saranno martedì 2 aprile nel pomeriggio e mercoledì 3 la mattina le giornate più critiche, con traffico da Bollino Rosso in direzione Venezia. I flussi di transito saranno in aumento a partire dalla mattinata di giovedì lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste e dal pomeriggio anche lungo la direttrice per Venezia. Questo per effetto dell'inizio delle vacanze secondo il calendario scolastico, per i primi rientri verso il centro-est Europa dei lavoratori stranieri e per il mini esodo dei turisti verso le grandi città del nord Italia. I flussi si manterranno sostenuti anche nell'intera giornata di venerdì e nel pomeriggio di sabato, soprattutto in direzione Trieste. Nel giorno di Pasqua ci sarà una drastica diminuzione del traffico che riprenderà in particolare a partire dal pomeriggio del lunedì. Martedì saranno possibili code o rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste-Lisert e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia nei pressi di Porto Gruaro. Code e rallentamenti in prossimità del cantiere saranno possibili anche nella mattinata di mercoledì per l'arrivo di altri autoarticolati dal centro-est Europa, sempre in direzione Venezia. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Un'auto ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di ieri lungo la statale 52 Carnica, dopo essere stata tamponata da un'altra vettura, poi finita nel fossato. Entrambi i conducenti hanno riportato contusioni e ferite non gravi. I vigili del fuoco di Tolmezzo hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il tratto di strada. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dello scontro. Inevitabili i rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso con deviazioni sulle altre arterie stradali. Se non fosse accaduto ciò che è successo, saremmo stati uniti, forse già sposati. La nostra relazione è durata 40 anni. Lo ha detto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovic, in una intervista andata in onda ieri sera Porta a Porta su Rai 1. Non l'abbiamo fatto prima perché ero sposato, poi perché ho pensato che fosse troppo giovane, ma non ci siamo mai persi di vista, ha proseguito Sterpin. Nell'ultimo periodo, negli ultimi 4-5 anni, Liliana ha detto, mi aveva confessato, che il matrimonio con Visintini in quanto a unione sessuale era finito. La risiera di San Sabba diventa accessibile a tutti con la realizzazione di un ascensore esterno e l'abbattimento delle barriere architettoniche. È il principale degli interventi previsti tra le opere avviate il 4 marzo che si dovrebbero concludere entro fine ottobre. Opere per 540.000 euro finanziate con fondi ministeriali. Su via Rio Primario si aprirà un nuovo ingresso pedonale. Lo spazio sopra gli uffici verrà recuperato e impiegato per la conservazione dei cimeli. La risiera resterà comunque sempre accessibile ai visitatori e per le cerimonie. Le deportazioni dei pazienti ebrei dagli ospedali di Trieste durante l'occupazione nazista, al centro di un convegno organizzato dal Museo della Comunità Ebraica di Trieste al Teatrino Basaglia nel Parco di San Giovanni. Erano ricoverati all'ospedale maggiore di Trieste, alcuni in quello dei pazienti cronici, la maggior parte erano rinchiusi in manicomio a San Giovanni. Le SS 80 anni fa, il 28 marzo del 1944, ne prelevarono 47, li portarono in risiera e poi, la mattina dopo, li deportarono sui carri merce dal Silos in direzione di Auschwitz e Birkenau. Nessuno è sopravvissuto. Fa luce su questi fatti il rapporto fra medicina, eugenetica e il convegno La cura tradita, organizzato dal Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner al Teatrino Basaglia. Occasione preziosa per raccogliere la testimonianza di due bambine che erano con quei pazienti sulla carrozza diretta verso i lager, le sorelle Bucci, Andra e Tati. Dopo la doccia ci hanno dato altri vestiti che non erano più i nostri. E l'ultima tappa era il tatuaggio sul nostro braccio sinistro, quindi siamo diventate, come volevano loro, dei numeri, ma grazie alla nostra mamma non abbiamo mai perso la nostra identità, perché quando siamo arrivate portate poi nella baracca dei gemelli, la mamma quando poteva veniva a salutarci e ci ricordava continuamente, tutte le volte, il nostro nome e il nostro cognome. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 7.40 e 25 secondi iniziamo la pagina sportiva. Il ciclismo, ancora un buon piazzamento per Jonathan Milan in terra fiamminga in una delle gare di avvicinamento al Giro delle Fiandre. È giunto settimo nella Dwarsdoor Vlaanderen attraverso le Fiandre sulla distanza di 188 chilometri. Nella gara che ha visto il successo dello statunitense Matteo Jorgensen, il corridore di buia è giunto a 1 minuto e 47 secondi dal vincitore. Il Giro delle Fiandre si disputerà domenica. Pallanuoto femminile, sconfitta casalinga per la Pallanuoto Trieste ieri nel posticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di A1. Alla Bruno Bianchi le ragazze triestine sono state superate dalla SIS Roma per 8-11. Gara sempre condotta dalle romane, tranne nel terzo tempo che ha visto la reazione di Trieste non sufficiente però a ribaltare l'inerzia della gara. Orchette raggiunte in classifica dalle capitoline, ma ancora più tre sul rapallo, quinto. Abbiamo commesso troppi errori in avvio, commenta l'allenatore Paolo Zia. Faremo tesoro dell'esperienza. Ora la pausa nel fine settimana di Pasqua. La Pallanuoto Trieste tornerà in acqua tra il 5 e il 7 aprile al Centro Federale di Ostia per la Final Six di Coppa Italia femminile. Lo sci di fondo, terza medaglia d'oro per Martina Di Centa ai campionati italiani assoluti di pragelato in Piemonte. La carabiniera 24enne si è imposta ieri nella 50 km mass start dopo i successi ottenuti nei giorni scorsi nella 10 km e nella sprint. Un filotto ottenuto in condizioni meteo avverse in tutte e tre le gare sotto una fitta nevicata sulla pista olimpica di pragelato. Sci alpino, primo successo stagionale per il pontebano Hans Vaccari che si è imposto nello slalom fis dell'Alpe Cermis con un margine significativo di 59 centesimi su Davide Seppi e 85 su Manuel Ploner. La pallavolo maschile in Serie A2 iniziano i quarti di finale dei play-off promozione. Stasera alle 20 iniziano gli impegni della Tinet Prata Pordenone che affronta Ravenna. Oggi la prima partita della serie in Emilia-Romagna con inizio alle 20. Lunedì 1 aprile la gara in casa alle 19. Vediamo i giornali di oggi. Il Gazzettino di Pordenone apre con la scossa di terremoto di ieri sera tra Tramonti e Socchieve, notte di paura in Friuli. In taglio centrale la cronaca locale, Viale Martelli da Formula 1, 20 multe al mese, è la strada in cui si corre di più in città. In centropagina una vignetta, Ciriani traccia il bilancio, ho fatto volare la città. Nella colonna destra, in arrivo dal Ghana, 250 operai specializzati. E poi è morta l'imprenditrice Ravagnolo, aveva 54 anni. Sul fondo, punto di nascita di San Vito, la firma del consigliere Maur Maira, la petizione contro la chiusura, diventa un caso. Arrestato un ex consigliere all'apertura del Messaggero Veneto di Pordenone. Anche qui la fotonotizia è sulla scossa di terremoto avvertita in tutto il Friuli. In alto la vicenda Electrolux, la FIOM di Porcia ha firmato. Richiamata in prima pagina anche una storia, quella di Maria Rosa, guarisce dal CRO di Aviano e porta i colori del Madagascar a Pordenone. Il Piccolo di Trieste apre con la vicenda Varsila, le richieste di MSC, il titolo, le condizioni poste dal gruppo di Aponte al tavolo convocato al Ministero delle Imprese, invocata l'estensione all'area di Bagnoli del regime di Punto Franco, sindacati intanto in pressing sui salari. In taglio alto sul Piccolo di Trieste l'arresto dell'ex consigliere regionale della Lega De Mattia per le spese pazze, la ciclette e i regali, arrestato De Mattia, ex politico leghista, è il titolo della pagina interna. La condanna a 4 anni e 2 mesi è diventata definitiva. E poi la soluzione di Mara Piccina ed Enore Picco, mentre per l'altro ex leghista Razzini ha annullata la condanna della Corte di Cassazione. Nei temi dell'economia, il superbonus edilizia, la stretta sui crediti che mette centinaia di posti di lavoro a rischio, scrive il Piccolo. Nella cronaca di Trieste il monito del vescovo Trevisi che per Pasqua dice non rassegniamoci a guerre e indifferenza. Si riferisce sul Piccolo anche dei lavori alla risiera di San Sabba, in arrivo un ascensore e ingressi rinnovati. Spazio in prima pagina, scienza e virgola, rassegna che esplora la diversità come carburante delle scoperte scientifiche. È stata presentata e si svolgerà a Trieste dal 16 al 21 maggio. Il Messaggero Veneto di Udine apre con l'inchiesta sulle spese pazze, arrestato un ex consigliere in carcere Ugo De Mattia. Nella fotonotizia la scossa di terremoto con epicentro tra Socchieve e Tramonti avvertita in tutto il Friuli. Nella colonna destra le misure del governo, nuova stretta sul superbonus, a rischio centinaia di posti di lavoro. Poi una storia, a Dignano si rovescia la canoa lungo il Tagliamento, ragazzi salvati dal parroco. Sul fondo il libro del premio Terzani al Papa, i protagonisti dell'opera di McCann, vincitrice del premio di Vicino Lontano a Udine nel 2022, ricevuti dal Pontefice. E poi così cambia piazza Garibaldi che è l'apertura delle pagine locali di Udine. Terremoto, notte di paura in Friuli e l'apertura del Gazzettino edizione del Friuli. Nella fotonotizia guerra ai tetti in amianto, 25.000 sono da bonificare. Nella cronaca, botte e rapina al supermercato in Viale Palmanova a Udine, fratelli in carcere. Nei temi di sanità, visite mediche in ambulatorio per tagliare le attese. Infine, l'addio all'imprenditore vitivinicolo Pietro Pittaro. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo apre con il caso dei centri islamici di Monfalcone. Ramadan al bocciodromo è il titolo, indicato dal comune il sito alternativo per le preghiere. L'impianto sportivo si trova a Panzano. Una fotonotizia ci porta a Grado con la fondazione che riapre Parco Viatori per Pasqua, bruciate tutte le tappe. Di spalla in prima pagina sul Piccolo edizione isontina i richiami alle cronache cittadine. per la cronaca Gorizia Mastelli, col microchip per far decollare la raccolta differenziata dei rifiuti, mentre per la cronaca giudiziaria si parla delle aggressioni e dei danni sui bus dell'APT. In procura Gorizia 15 denunce dell'azienda, costituzione di parte civile, primo processo l'8 maggio. La presidente Belletti dice: perseguiremo tutti i reati, l'interruzione di pubblico servizio comporta ritardi sulle linee e penali. La cultura in prima pagina sul Piccolo di Gorizia e Monfalcone, Don Tognon e quel tesoro salvato, a Grado museo dedicato al parroco, il museo civico del tesoro di Grado sarà dedicato al Monsignor Sebastiano Tognon, arciprete di Grado dal 1913 fino al 1956, anno della sua morte. Vediamo gli appuntamenti liturgici del Giovedì Santo. A Trieste il Vescovo Monsignor Trevisi presiderà la concelebrazione della Santa Messa Crismale alle 10.30 in Cattedrale. Alle 19 sempre in Cattedrale presiderà la concelebrazione della Santa Messa, durante la quale compirà il rito della lavanda dei piedi. Al termine avrà luogo la traslazione del Santissimo Sacramento alla Cappella della Reposizione. A Udine alle 9.30 i sacerdoti e i diaconi dell'arcidiocesi si radunano attorno all'arcivescovo ora emerito per la messa del Crisma, l'ultima presieduta da Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, a cui dal 5 maggio prossimo subentrerà il nuovo arcivescovo, Monsignor Riccardo Lamba. Alle 19 Mazzoccato celebrerà in cattedrale la messa in cena Domini. L'arcivescovo di Gorizia, Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, presiderà la solenne concelebrazione della messa crismale nella Basilica Patriarcale di Aquileia alle 10.30. Alle 20.30 nella Cattedrale di Gorizia si terrà la celebrazione eucaristica in cena Domini. A Pordenone il vescovo Giuseppe Pellegrini celebrerà la messa del Crisma nel Duomo San Marco. Alle 15 in carcere celebrerà invece la Santa Messa con la lavanda dei piedi. Infine alle 20.30 in concattedrale la Santa Messa in cena Domini. E a Trieste iniziano oggi le discusse demolizioni dell'edificio ex Pavanna a San Giacomo, al posto del quale sorgerà la nuova palestra della scuola in via Frausin. Un progetto contestato da parte dei residenti che chiedono più spazi verdi a uso pubblico nel rione. Le demolizioni dureranno 45 giorni. I lavori saranno effettuati anche durante le vacanze pasquali. Da oggi a martedì 2 aprile nel tratto interessato della strada di via Frausin sarà istituito il divieto di sosta e di transito anche pedonale. Chi ha la patente da oltre 20 anni deve aggiornarsi ai cambiamenti del codice della strada, che peraltro sta per essere ancora una volta modificato. Lo sostiene il comandante della Polizia Locale del Friuli Orientale, Fabiano Gallizia, che dedicherà 3 incontri nell'aula magna della scuola Piccoli a Cividale proprio a chi è patentato da oltre 20 anni. Il primo si terrà oggi alle 18.30. Sentiamo Gallizia. È necessario aggiornarsi perché le norme del codice della strada negli ultimi 15-20 anni sono state modificate in gran parte, e poi perché le persone che hanno le cosiddette patenti datate, quindi da 25-30 anni, si trovano ad affrontare segnaletiche e strutture del tutto nuove. Se noi pensiamo per esempio a tutti i vari tipi di rotatoria o alle segnaletiche di diverse zone che si sono installate negli anni, le zone a traffico limitato, le zone pedonali, le zone pedonali e ciclabili, oltre che ad affrontare sulla strada anche tutta una serie di nuovi veicoli che prima non c'erano. Se ne pensiamo alle biciclette a pedalata assistita, ai monopattini, le microcar, le autoservizio, i veicoli a servizio delle persone con disabilità. Ci sono grossi dubbi che noi rileviamo per esempio quando interveniamo nei sinistri stradali, e quindi abbiamo verificato che coloro che hanno la patente da un po' di tempo hanno bisogno in pratica di un ripasso e di conoscere anche i comportamenti da tenere in determinate situazioni. La sicurezza che uno ha dopo molti anni che ha la patente magari può essere un rischio. Sì, tutti noi quando guidiamo, purtroppo guidiamo per abitudine, perché più o meno percorriamo sempre gli stessi tragitti e quindi non facciamo molta attenzione alla segnaletica, alle persone che stanno come utenti sulla strada e ai comportamenti degli altri. Oltre a questo, poi nel corso, in queste 3 serate, di solito nell'ultima serata c'è anche l'intervento di un medico che spiega alle persone quali sono le attenzioni da avere, soprattutto quando si utilizzano medicinali o quando si hanno dei momenti di stanchezza, quali sono le precauzioni da tenere per essere sempre presenti e avere la massima accortezza nella guida. Vediamo altri appuntamenti, riscoprire grandi autori e classici della letteratura rimasti nell'ombra per il grande pubblico. È l'obiettivo del ciclo di incontri fuori gioco, organizzato dal Circolo Culturale Eureka di Pordenone. Il primo incontro si tiene oggi nella Biblioteca Civica alle 19 e sarà dedicato allo scrittore Gilbert Kate Chesterton. L'incontro Città Estesa, dalla rigenerazione urbana a quella territoriale, promosso dall'Istituto Regionale di Storia Europea e dall'Ordine degli Architetti, si terrà nell'auditorium della Casa dello studente Antonio Zanussi a Pordenone alle 15.30. Il professor Stefano Di Brazzano terrà la lettura del canto 33° del Paradiso di Dante, ultima del ciclo dedicato al poema a cura del Comitato Triestino della Società Dante Alighieri, alle 17.30 a Trieste in Sala Bazlen. Il Museo d'Arte di Palazzo Ricchieri a Pordenone organizza una giornata di gioco e conoscenza del museo per i bambini dalla prima alla quinta elementare in vacanza da scuola, dalle 8.30 alle 12.30 per massimo 15 partecipanti. Il professor Oliviero Stock racconterà una breve storia dell'intelligenza artificiale a Trieste alle 17 al Circolo della Stampa. L'attore Massimo De Lorenzo, noto per aver interpretato uno dei tre sceneggiatori nella serie TV Boris, presenta il suo libro Tante care cose, un'autobiografia epistolare con ricordi e aneddoti, alle 17 a Udine nella libreria Friuli. Il libro L'ultimo battito della giornalista Irene Giurovic, che parla di diritti degli animali e del nostro legame con loro, sarà presentato a Udine alla presenza della psicologa Ines Testoni alle 18.30 nella Galleria Antivari. Il Teatro Verdi di Trieste propone una messa di Requiem di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Jordi Bernasser con la soprano russa Olga Maslova e il tenore Carlo Ventre alle 20. Lo spettacolo Sarebbe stato interessante sui temi della creazione e della maternità andrà in scena al Teatro Miela di Trieste alle 20.30. Serata dedicata al cantautore e pianista Paolo Conte con spettacolo e degustazione finale di vini a Trieste ad Hangar Teatri alle 20.30. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Ue o Fevelin D alle 11.19 l'appuntamento con anziani, anzi no. In questa puntata scopriremo quanto il fare rete possa significare per il miglioramento del welfare. Alle 11.55 andrà in onda Né Stato né Mercato. Incontriamo oggi Giorgio Volpe del Forum del Terzo Settore FVG. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Sono le 7.54, si chiude questa prima edizione del giornale radio regionale per il Friuli Venezia Giulia. È stata redatta e condotta in studio da Livia Liberatore e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vittoria Protti e Carlo Morello. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. Grazie per la vostra cortese attenzione e buona giornata. Buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.